Storiacce di Raffaella Calandra. Lei si è pentito di più di aver pagato gli estorsori, di aver pagato gli emissari dei boss o di aver a un certo punto denunciato? Mi sono pentito moltissimo di aver pagato i criminali. Non mi sono mai pentito di aver fatto le denunce. Però certamente non ci aspettavamo di essere completamente abbandonati a noi stessi. Abbiamo vissuto per oltre un anno in un'abitazione fatiscente. Perché alla fine credere nello Stato conviene sempre, come questo ascoltatore di Storiacce ha drammaticamente sperimentato sulla sua pelle. La scelta della collaborazione non sempre però è facile, anzi, il più delle volte ha dei costi altissimi perché i testimoni di giustizia perdono casa, lavoro, identità e molto spesso si sentono abbandonati da quello Stato che hanno aiutato. Un problema che esiste e a cui, come sentiremo, si prova a dare concreta risposta con assunzioni e facilitazioni per le imprese. Ma voi? Sareste disposti ad esporvi direttamente per amore di giustizia? Da qui parte con questa domanda questa puntata di Storiacce. Commentatela con noi se vi va sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter con l'account Raff Calandra. Sarebbe normale in uno stato normale civile fare lavorare un'azienda che ha denunciato. Ho ricevuto più di 30 attentati. Noi abbiamo il problema a vivere, a fare la spesa. Un cantiere navale. Un giorno sono arrivati due spagnoli, uno spagnolo e un napoletano, e loro avevano necessità di imbarcazioni per il trasporto di cocaina. Io invece di farlo e prendermi i soldi belli puliti in tasca, mi sono rivolta alla Polizia di Stato. Ho portato a termine tre operazioni di polizia. Purtroppo il programma di protezione ti estranea dal mondo. Non hai più diritto di avere contatti con la tua famiglia, tua mamma, tuo padre, con nessuno. Siamo usciti, ci siamo trovati 90.000 euro di INPS e INAIL da pagare perché loro non hanno sospeso l'attività e quindi ora si è arrivato in Equitalia. Sto crescendo un bello partito, quanta cosa che l'alcia impara a dare. Della loro vita parlano quasi tutti al passato, perché quando parlano di vita, i testimoni di giustizia in genere pensano a quella vissuta prima del momento in cui hanno denunciato un agguato, un'estorsione, un traffico di droga. Hanno fatto una scelta di coraggio e lealtà verso lo Stato, ma non sempre da quello stesso Stato si sono sentiti difesi e soprattutto aiutati a costruire una nuova esistenza, a gestire la nuova condizione una volta perso di colpo lavoro, casa e identità. Per questo qualcuno alla fine è voluto uscire dal programma di protezione del Viminale, per questo molti spesso protestano. Delle vite difficili dei testimoni di giustizia ci siamo più volte occupati in Storiacce, ma ci torniamo anche oggi perché questo rappresenta un nodo non ancora risolto della normativa antimafia. Eppure un gruppo di lavoro presieduto dal vice ministro all'interno Filippo Bubbico, che sentiremo tra poco, lui stesso che è a capo soprattutto della commissione centrale per i testimoni, ha confermato la necessità di interventi a loro favore, perché, per dirla col titolare dell'interno Alfano, loro, i testimoni, aiutano lo Stato. I testimoni di giustizia danno una mano d'aiuto alla giustizia, danno una mano d'aiuto alla verità e noi dobbiamo aiutarli. Ero uno studente della facoltà di medicina e chirurgia, quando sono stato invece inserito nel programma di protezione sono stato costretto a lasciare la mia città, ho dovuto rinunciare alla mia identità personale, praticamente la mia vita è stata una non vita. Sindacalista a livello nazionale, ero stato da poco eletto come consigliere d'amministrazione in una cassa di previdenza. Mi occupavo di politica, una vita troncata, finita. Eravamo sulla tangenziale di Napoli, ci venivano incontro queste due persone, una che barcollava, era già ferita, e un'altra che la inseguiva e che poi l'ha raggiunto e l'ha finito. Quando abbiamo rivelato ai carabinieri le sembianze di questo tizio, hanno subito capito chi era. Mi hanno soppresso il cane, mi hanno fatto un paio di volte degli inseguimenti. Quando un testimone viene inserito nel programma di protezione, puoi utilizzare una carta d'identità con generalità, diciamo, falsa, però questa carta d'identità non la puoi utilizzare in alcun modo, né per aprire, che ne so, un conto corrente, né per puoi fare l'esame per la patente, non puoi utilizzarlo per l'iscrizione universitaria. Io la mattina facevo finta di uscire da casa per andare a lavorare. Ci sono testimoni laureati, ci sono odontotecnici, ci sono imprenditori. Avevamo proposto addirittura se era il caso di attingere a qualcuno di noi testimoni per affiancarli, per far sì che loro possano capire meglio la nostra situazione. Se non lo sai, so sempre da velena parlare, fosse per me. Hanno aiutato lo Stato, denunciando chi ha sparato a Don Puglisi a Palermo. L'hanno aiutato andando a raccontare l'omicidio visto in coda nella tangenziale. L'hanno aiutato quando non hanno esitato a puntare il dito anche contro i propri familiari. E poi spesso, tanto per cominciare, non riescono a trovare un lavoro per ricominciare, proprio come succede oggi a Luigi Orsino, la cui storia però, come sentiremo, è un po' diversa dalle altre, almeno nella partenza, anche se poi anche lui ad un certo punto ha denunciato. Cosa può fare il Ministero dell'Interno per aiutare chi è esposto in nome della giustizia? Un primo passo è stata di sicuro la legge per l'assunzione all'interno della pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia, ma ora, anticipa Astoriacce, Filippo Bubbico, viceministro all'interno e presidente della commissione specifica sui testimoni, stiamo pensando ad una norma anche per aiutare le imprese. Testimone di giustizia che diventa titolare di uno speciale programma di protezione, certo, e quindi viene portato in una località protetta, quando le esigenze di giustizia si concludono e quando le condizioni di sicurezza lo consentono, viene favorita la fuoriuscita dal programma di protezione attraverso una misura di reinserimento sociale e lavorativo. Il testimone presenta un progetto che viene finanziato secondo parametri predefiniti dalla legge perché possa riavviare una propria attività. Le esperienze fatte sinora non manifestano successi significativi, perché, anzi, direi. Tant'è che il Parlamento 2 anni fa ha introdotto una norma che prevede l'assunzione nei ruoli della pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia. Anche questa era stata una richiesta fatta sentire a gran voce proprio da un gruppo di testimoni di giustizia. Sì, purtroppo non prevede l'assunzione obbligatoria, prevede la possibilità dell'assunzione per quelle amministrazioni che abbiano voglia di farlo. Bisogna dire anche che la Regione Siciliana, con una propria legge regionale, ha previsto l'assunzione diretta di testimoni di giustizia che abbiano testimoniato in processi che si sono celebrati presso i tribunali siciliani e che attraverso quella norma sono stati assunti una 15 di testimoni, per i quali sono in fase di definizione tutte le attività di ridislocazione in diverse parti del territorio nazionale sulla scorta di un'intesa che abbiamo sottoscritto con la Regione. C'è una ragionevole certezza che si possa offrire una opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione a tutti i testimoni di giustizia. Quindi attraverso una sorta di canale preferenziale? Esatto. Un certo numero di testimoni risulta assunto con la legge nazionale nelle pubbliche amministrazioni. Siamo nell'ordine della decina. Meno di 10 testimoni che sono stati già assunti dalla pubblica amministrazione. Con la legge nazionale. Con la legge nazionale. E una 15 con la legge regionale. La legge regionale siciliana. Siciliana, esatto. E con la legge nazionale abbiamo fiducia che il numero possa progressivamente crescere, perché è in corso un lavoro di ricognizione e anche di sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche. Molto spesso e volentieri si tratta proprio di imprenditori che si trovano a denunciare tentativi di estorsioni. Sì. Con questa proposta di legge vengono definite una serie di misure che aiutano questi testimoni a restare nel luogo di residenza e ad ottenere particolari benefici per esercitare la propria attività d'impresa. Con questo disegno di legge si ipotizza una serie di interventi diretti perché questi testimoni possano continuare ad esercitare la propria attività d'impresa. Assegnazioni dirette da parte delle amministrazioni pubbliche, cioè per appalti, la forniture di beni o di servizi. Quindi certo. Rivolgersi all'amministrazione pubblica tende a rivolgersi di più a quelle imprese che collaborano con lo Stato. Oggi tutte le amministrazioni pubbliche devono rispettare le leggi definite dal codice degli appalti. Le eccezioni riguarderanno i testimoni di giustizia, dando la facoltà alle amministrazioni locali di procedere in assegnazioni dirette di appalti entro certe dimensioni o di forniture di beni e servizi entro certe dimensioni a quelle imprese i cui titolari vengono qualificati come testimoni di giustizia. Denunciare dunque conviene? Sta soprattutto qui, in questa domanda, la battaglia principale dello Stato per avere dalla sua parte quante più persone nel rendere conveniente, in concreto, collaborare con la magistratura. E questo dovrebbe valere sempre per i testimoni di giustizia, ovviamente, per i collaboratori, ma pure per chi ha capito strada facendo da che parte stare, per chi ha all'inizio subito le minacce e le estorsioni, ma poi alla fine si è ribellato al pizzo, anche se questo ha significato passare da avere patrimoni e ricchezze a vivere con 200 euro al mese in una casa senza elettricità. E questa è la storia che raccontiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Non lamento tanto di non aver ricevuto un sostegno economico quanto di essere stato dimenticato dallo Stato. Io vorrei che lo Stato mi aiutasse a riconquistare la mia dignità perduta, ritornare a lavorare, perché siamo adesso in una situazione di totale indigenza. Cioè noi viviamo materialmente con la mia pensione di invalidità di 289 euro mensili. Io sono stato colpito da infarto e ho 3 bypass. Mi è stata riconosciuta nel 2015, a dicembre 2015, una pensione di invalidità di 289 euro mensili. Noi con quelli viviamo. Lo Stato non ci sente, specialmente a noi del Sud. Un lavoro manca sempre, per fortuna abbiamo il groove. Avevano molti negozi e ancora più case. Si sono ritrovati a vivere in un'abitazione senza elettricità e con soli 200 euro al mese. E questa è la storia di Luigi Orsino, segnalata a Storiacce da un nostro ascoltatore, Stefano Becciolini. È una storia non del tutto lineare, a dire il vero, come molte però delle vicende che incrociano la malavita organizzata, ma che forse proprio per questo contribuisce a mostrare da una parte il cammino fatto, dall'altra anche le tante zone intermedie e grigie che restano. E di sicuro conferma questa storia nella drammaticità della sua vicenda come sia sempre più conveniente rivolgersi allo Stato piuttosto che subire le richieste della malavita organizzata. Questa è la storia di un uomo che lo Stato oggi protegge fisicamente con una tutela dei carabinieri, ma che non ritiene invece di dover aiutare economicamente. Io e mia moglie abbiamo incominciato dal nulla, poi siamo arrivati ad avere 5 grandi negozi, 2 di arredamenti e 3 di abbigliamento. Avevamo numerosi dipendenti. Tutto questo dove? A Portici, in provincia di Napoli. Questa crescita ha destato l'interesse della camorra locale, del clan locale. E in che modo siete finiti nel mirino della camorra? Sono presentati a chiederci il classico pizzo. Chiesero i 20 milioni di allora. Abbiamo opposto resistenza e abbiamo subito attentati contro i negozi, spari nelle vetrine, sequestro dei dipendenti. Alla fine si è costretti a cedere e infatti cedemmo anche noi e fummo costretti a pagare cifre ingenti. Mentre all'inizio alla prima richiesta di pizzo avete detto no, alla fine avete ceduto. Dopo quanto tempo, quanto avete pagato? Noi abbiamo ceduto alla prima richiesta esorsiva dopo qualche mese che ci era stata presentata e dopo che avevamo subito numerosi atti intimidatori. Noi pagammo e per poter lavorare tranquillamente, perché purtroppo non c'era altra strada da poter percorrere. Ecco, quanto avete pagato agli estorsori? Svariate centinaia di milioni. E tenga presente che ci sono stati estorte anche 2 proprietà, anzi 3 proprietà immobiliari, un grosso appartamento di 180 metri quadrati ad Ercolano e altre 2 proprietà nella località turistica di montagna di Roccaraso. A un certo punto fummo costretti a rivolgerci ad un usuraio. questo usuraio, fra le altre cose, venimmo a scoprire poi in seguito, ovviamente, che faceva parte integrante del clan camorristico della zona, per cui in effetti le richieste estorsive andavano di pari passo con l'attività dell'usuraio. Lei perché davanti a queste richieste di estorsioni sempre più forti, ha detto anche attentati, ha detto anche sequestri di dipendenti, perché non ha denunciato? Dal mio punto di vista, il primo obbligo di un imprenditore è quello di cercare di salvaguardare le sue imprese. Io ero perfettamente a conoscenza che una denuncia avrebbe significato la catastrofe delle mie imprese, cosa che poi puntualmente avvenne, perché nel momento in cui io nel 2004, io e mia moglie, denunciammo tutto alla Procura della Repubblica di Nola, le banche ci chiusero gli affidamenti, i fornitori ci vennero meno in quanto non ci davano più credito, i nostri esercizi commerciali furono disertati dalla clientela che aveva paura di frequentarli in quanto temeva, e non a torto, di poter essere coinvolti in eventuali attentati nei nostri confronti. Questa logicamente fu la pietra tombale messa sulle nostre attività. Una denuncia significava la morte imprenditoriale. Molti imprenditori che denunciano ci hanno raccontato delle difficoltà, soprattutto rispetto alla clientela del posto che decide di non frequentare più determinati negozi per non esporsi. Però questo clima è progressivamente migliorato in giro per l'Italia, forse anche grazie al supporto delle associazioni anti-racket. Lei non ha mai pensato anche di chiedere un aiuto a queste associazioni? Noi siamo capitolati, siamo caduti nel baratro, per cui alla fine è stato impossibile tirarcene fuori. Quei beni che non c'erano stati sottratti con la forza dai criminali sono stati messi sotto esecuzione immobiliare, pignorati. E quindi sono stati poi venduti all'asta tutti quanti i nostri beni immobiliari, compresa l'abitazione in cui noi risiedevamo, la nostra abitazione principale, l'abitazione di famiglia. Visto che avevate già pagato, perché a un certo punto decideste di denunciare? La Camorra, come tutte le mafie, del resto, non si ferma affatto, ma chiede e chiede sempre di più. Non sapevate già che nel momento in cui aveste ceduto alla prima richiesta estorsiva non vi sareste più liberati dei vostri estorsori? Lo immaginavamo senz'altro. Del resto l'alternativa qual era? Purtroppo ho dovuto chinare la testa per il bene delle aziende e anche per la salvaguardia della famiglia. E forse anche per sfiducia nei confronti dello Stato, perché diciamo che l'alternativa esisteva ed è sempre l'alternativa di rivolgersi allo Stato, e oggi non sono più i tempi di Libero Grassi. Io sono convinto che la criminalità organizzata attecchisca in quelle zone in cui la presenza dello Stato viene meno o è poca cosa. Orsino non è mai stato ammesso al sistema di protezione dei testimoni perché le sue denunce sono finite in archiviazione, ci spiega, ma è invece vittima di usura e racket, e questo gli è stato riconosciuto. In virtù di questo status potrebbe allora ottenere un sostegno economico dal commissario straordinario, ed è questo il suggerimento concreto che al nostro ascoltatore dà direttamente il viceministro all'interno Filippo Bubbico. I soggetti, i cittadini che subiscono un'estorsione, usura, diventano tutti testimoni di giustizia? No, ma anche non diventando testimoni di giustizia hanno diritto al risarcimento che il commissario nazionale anti-usura e anti-racket conferisce loro. Lo fa sulla base della istruttoria e decisivo il parere della Procura distrettuale antimafia, perché se il soggetto non ha i requisiti di assoluta limpidezza, la legge prevede che non si debba intervenire in alcun modo. Quindi i cittadini vittime di estorsione e di usura hanno diritto ad accedere al fondo gestito dal commissario anti-usura e anti-racket. Io non so se questo cittadino ha ottenuto o non ha ottenuto. A quanto ci dice no. Ma, e allora evidentemente non aveva diritto ad ottenere il risarcimento previsto dalla legge, che quando il cittadino ritiene di non essere stato riconosciuto meritevole dell'intervento pur avendone diritto, la legge prevede che possa presentare ricorso al TAR e al Consiglio di Stato, e devo dire che in casi limitati, ma ci sono, le decisioni del TAR hanno riconosciuto le ragioni del cittadino che non aveva visto riconosciuto il proprio diritto al risarcimento. Non solo oggi però, ma anche nell'antichità e nella storia del mito, si aveva a che fare con la convenienza della denuncia. Linea dunque, come sempre a questo punto, a Giorgio Giranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica, e alle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Gli dei dell'Olimpo, si sa, non erano modelli di virtù. Ma fra tutti gli dei ce n'era uno più criminale degli altri. Era Hermes, che i romani chiamavano Mercurio, messaggero degli dei ma anche signore dei ladri e dei malfattori. Gli antichi narravano che Hermes aveva cominciato la sua carriera criminale quando era ancora un neonato. Era sgusciato via dalla culla ed era andato a rubare le mandrie di suo fratello, il dio Apollo. Un'impresa da brigante di altissimo profilo e non solo per un bambino, ma tutto rischiava di andare a monte per un dettaglio. Il furto aveva avuto un testimone. Un vecchio contadino, mentre zappava una vigna, aveva visto ogni cosa. Hermes gli si avvicinò allora e gli disse: «Vecchio, fai conto di essere cieco e sordo. Se racconterai a qualcuno quello che hai visto, me la pagherai». E questo ce lo racconta un inno antichissimo attribuito addirittura ad Omero. Il contadino, spaventato, promise di tacere. «Sarò muto come un sasso». Ma poi non riuscì a mentire e disse la verità ad Apollo, che così recuperò le sue mandrie. Hermes però si vendicò contro il testimone. Come racconta questa volta il poeta latino Ovidio, trasformò il contadino che aveva promesso di essere muto come un sasso proprio in una pietra. Quella pietra che gli antichi chiamavano pietra di paragone e che usavano per distinguere l'oro vero da quello fasullo. Così il testimone avrebbe continuato a dire la verità in eterno. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o su Twitter all'account Raf Calandra. Se avete anche voi storiacce da segnalarci, scriveteci una mail a storiacce@radio24.it. Ciao a tutti, a presto!